11 di notte, cazzo. Mi sta bene a casa, metti la storia che ti fa male. Però li allontano meno male, dai. Sentiamo più tardi, già. Sono domani. Comunque ci organizziamo andare a farci due lanci, Gianni, eh. In pochi ma buoni, no, mi direte quella che fa casino. Già lo organizziamo, dai, ok? Ehi. Ma io riesco bene, qualcosa ci cominciamo per acceso, resta troppo bene. E volevo mettere anche l'elica per far girare l'aria. A più tardi, ciao Salvi, a dopo, stasera se ti sei naigana, ciao. Ciao, ciao Lugarie, metti la testa dentro il forno, così c'è più fresco, che a più tardi, ciao. No, ma ti rischi, ci sono quei ventilatori con lampadario, ce li presi? Salve. Dicevo, cazzo, su Riccardo un po', cazzo, una che li mangia non sei bit, mamma non si attacca un timone là più. Se uno non ha problemi, Mario, boh, Martinelli non sei bit, uscì da gabba, ti ammazza. Ma che? Ma ti metto la collo, quando si lascia la colla agli altri, torna in alto, te lo ci credi tutti. Sto avvicinato, cazzo. Che le metto, va? Dai, adesso, me lo lascio il bisino, cazzo. Mamma mia, rimane a me la mangia non sei bit, non sappiamo quanti scindi. Sì, mi toccava, mi do, mamma mia. Guarda, credimi, ieri mi avevo piaccato. Poi, quando sono uscito un attimino fuori, c'era troppo caldo lì dentro, no? Mi sono avvicinato da quegli amici, che dicono, magazzino. E dopo sono rientrato, stavo parlando con Giuseppe. Ho detto, ma ciao, mi fatta, Poi ti stavo chiamando, poi tu non mi rispondi via, allora mi vedo che sono andato. Ma si portava a fare, c'era troppo caldo lì dentro. Ma buona, a dopo, ciao. Giuseppe Marzigano, se la fa rendere, va tutti. E va bene, ci vediamo stasera, ciao. Ma trovo a classe, non mi ha detto niente, dai. Non mi ha detto nulla. Ma boh, ci sentiamo più tardi, dai. Ciao. Allora hai visto, a che ora mi fa assiso? Erano poco fa, a luna era, a luna. Dammi Giuseppe, alle 5 mi sono rientrato, alle 5 diceva rientrato. Sì, domani, alle 5 e mezzo, siamo qui, non siamo a un quarto. Vabbè, 5 e mezzo, allora io avevo un occhio rosso. Ma buona, già ne parliamo stasera, salve, a dopo, ciao. Stasera per prima di andare a pesca. Andare a pescare prima.